tra gli operai, cioè tra quelli che dovranno poi fare il lavoro concreto delle catene di montaggio, è quasi uno su due no, perché siamo oltre il 42% di no, perché il voto diventa il 36% con il voto plebiscitario, lì c'è stato il plebiscito degli impiegati che hanno votato sì, però siccome la discussione è sulle condizioni di lavoro, voglio sottolinearlo questo aspetto. Quindi tra gli operai è il 42% e no? Il no, sì, anche un punto è anche del 50, quasi uno su due, ecco. Quindi diciamo l'unico vero plebiscito sono sui 400 impiegati che hanno votato al 98%, però non sono alla catena di montaggio, lo voglio sottolineare. Certo. Quindi, dunque, detto questo, ma noi abbiamo assunto ieri una posizione e la confermiamo, noi consideravamo questo referendum illegittimo perché non si sottopongono al voto, tra l'altro di una sola fabbrica, la rinuncia ai diritti di tutti. Io credo che